Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi ben ritrovati a questo nostro appuntamento con la parola di Dio. Come sapete, l'obiettivo di questo nostro incontro mensile è quello di scorrere la parola di Dio cogliendo in essa un volto che ci guarda, un soggetto che ci accompagna, che ci conduce. Ecco, l'obiettivo della tua parola mi fa vivere è quello di ripercorrere alcuni testi della scrittura sentendo come questi testi parlano alla nostra vita e non solo parlano ad essa ma la plasmano. Da alcuni anni ormai stiamo facendo la lettura continua degli Atti degli Apostoli e siamo giunti al capitolo 23 degli Atti degli Apostoli, dove Paolo, abbiamo visto la volta scorsa, dove Paolo viene portato in prigione in occasione della sua ultima visita alla città santa, a Gerusalemme, iniziando quindi un periodo della sua vita che sarà proprio caratterizzato dalle catene, dal dolore, dalla sofferenza. Mi piace ecco iniziare questo nostro momento di condivisione, di confronto, di dialogo, invocando l'azione dello Spirito Santo su ciascuno di noi, perché lo Spirito sia colui che rende il mio linguaggio chiaro e il cuore di ciascuno di noi accogliente alla parola, che è sempre molto più grande, molto più incisiva di tutte le parole, le spiegazioni che noi possiamo dare. Possa intercedere per noi anche Maria e oggi in modo particolare la grande Teresa, Santa Teresa d'Avila, che ha saputo, grazie all'azione dello Spirito, penetrare nei misteri della vita di Dio e proporli, condividerli a ciascuno di noi. Come vi dicevo, quindi, siamo arrivati al capitolo 23 degli Atti degli Apostoli. Esattamente questa sera leggeremo il testo che va dal versetto 12 in poi. Invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di aprirlo proprio al capitolo che stiamo leggendo. Sarebbe preferibile sempre avere una Bibbia, nel senso che durante la nostra trasmissione uno degli aspetti che caratterizzano la nostra trasmissione è proprio quella di mostrare anche il dialogo che esiste tra i testi dell'Antico e i testi del Nuovo Testamento, in modo da notare la continuità dell'opera di Dio attraverso le pagine della Scrittura. Quindi iniziamo subito ascoltando il testo. Avevamo lasciato Paolo dopo un primo momento di confronto sulla spianata del Tempio, al termine della quale viene portato in prigione nella fortezza, nella cosiddetta fortezza Antonia, dopo che Paolo si è dichiarato cittadino romano. Allora ascoltiamo la prima parte del testo, come cosa succede subito dopo. Fattosi giorno, i giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero: «Ci siamo obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che non avremo ucciso Paolo. Voi dunque, insieme al Sinedrio, dite ora al comandante che ve lo conduca giù con il pretesto di esaminare più attentamente il suo caso. Noi, intanto, ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi». Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere dell'agguato, si recò alla fortezza, entrò e informò Paolo. Questi allora fece chiamare uno dei centurioni e gli disse: «Conduci questo ragazzo dal comandante, perché ha qualche cosa da riferirgli». Il centurione lo prese e lo condusse dal comandante dicendo: «Il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha chiesto di condurre da te questo ragazzo perché ha da dirti qualche cosa. Il comandante lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: «Che cosa hai da riferirmi?» Rispose: «I giudei si sono messi d'accordo per chiederti di condurre domani Paolo nel Sinedrio con il pretesto di indagare più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro, perché più di 40 dei loro uomini gli tendono un agguato. Hanno invocato su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non l'avessero ucciso, e ora stanno pronti aspettando il tuo consenso». Il comandante allora congedò il ragazzo con questo ordine: «Non dire a nessuno che mi hai dato queste informazioni». Allora notiamo che Paolo, l'indomani dopo il momento di confronto sulla spianata del Tempio, si trova già confrontato con un momento molto delicato. Più di 40 persone tra i giudei si sono impegnate con giuramento, quindi invocando su di sé la maledizione, dice il testo, quindi con un giuramento molto molto forte, si sono obbligati a non mangiare né bere nulla finché non avranno ucciso Paolo. Quindi diventa chiaro che l'obiettivo è farlo fuori. E qui emerge subito una domanda: come mai queste persone ce l'hanno così tanto con l'Apostolo Paolo? Qual è il punto, il problema che emerge dal suo insegnamento, visto che da un punto di vista così di relazioni Paolo non rappresenta un pericolo da un punto di vista fisico umano? Perché ce l'hanno così tanto con Paolo? Questo ci fa capire quanto sia rivoluzionario l'annuncio del Vangelo. Paolo ha totalmente ribaltato i criteri della religiosità del primo secolo. Pensiamo solo anche ad alcune espressioni che noi troviamo all'interno delle sue lettere. Quando Paolo, ad esempio, dice che non esiste più né giudeo, né greco, né schiavo, né libero, né uomo, né donna, capiamo bene che Paolo ribaltava la concezione che il popolo ebraico aveva di sé, abbatteva tutti i muri di separazione che erano stati costruiti per tutelare l'identità di un popolo in separazione con gli altri popoli, minava alla radice quelli che erano quegli atteggiamenti nei confronti dei pagani, nei confronti dei romani, nei confronti delle cosiddette nazioni, che se non passavano attraverso l'osservanza della legge non potevano essere accolte all'interno del popolo ebraico. Quindi con il suo insegnamento, che ovviamente è carico del Vangelo di Cristo, Paolo metteva in crisi e in difficoltà l'intera visione del popolo di Israele, l'intera visione del popolo ebraico, e quindi andava a minare un elemento fondamentale. Ma pensiamo anche a tutto l'insegnamento sui ministeri. I ministeri all'interno della Chiesa sono tutti elementi di servizio per costruire l'unica identità che è quella del corpo di Cristo. È chiaro che una visione del genere andava a spezzare la struttura del popolo di Dio ebraico, dove questo popolo di Dio era costruito attraverso tutta una serie di separazioni e di elezioni, dove c'era il sommo sacerdote, la classe dei sacerdoti, i leviti, la tribù di Davide, tutte le tribù di Israele e poi l'intero popolo. Cioè la struttura che uno osservava guardando il Tempio, dove si poteva accedere al Santo dei Santi solo attraverso tutta una serie di barriere, era la stessa struttura che caratterizzava anche il popolo di Dio al suo interno. Non solo Israele era separato dai pagani, ma anche all'interno c'era tutta una serie di livelli di vicinanza al Signore che l'insegnamento di Paolo faceva saltare, cioè il Vangelo di Cristo all'interno dell'insegnamento di Paolo faceva saltare. Allora, ho portato solo due esempi, ma questi due esempi bastano per far capire come l'insegnamento, l'annuncio che Paolo portava fosse rivoluzionario e obbligava praticamente chi nella religione del tempo aveva trovato una posizione, un ruolo, delle comodità, dei vantaggi, a mettere totalmente in discussione il tutto. Ecco perché Paolo è pericoloso. Ecco perché il Vangelo è rivoluzionario. E possiamo dire, l'annuncio che Paolo faceva nel primo secolo mantiene tutta la sua forza rivoluzionaria oggi, cioè ci impegna davvero a tenere continuamente purificata la nostra fede perché non cada in quelli che sono i tranelli o gli inganni della religione, cioè di una falsa religiosità fatta di tante strutture e di tanti elementi esterni. Quindi capiamo alla luce di questo come mai queste 40 persone e comunque le autorità di Israele del tempo di Gerusalemme ce l'abbiano tanto con Paolo. Per applicare questo a noi possiamo pensare anche solo alla prima lettura che la liturgia della parola oggi ci ha proposto. Leggendo la lettera ai Galati, la liturgia oggi ci propone le due alleanze, l'alleanza in Agar che ci genera la legge e l'alleanza di Sara che ci genera la promessa. Come mai Paolo fa queste due, utilizza queste due immagini, applicando l'alleanza di Agar a quello che era il popolo di Israele del suo tempo? Perché la nascita di Ismaele da parte di Abramo ed Agar non è stato altro che un modo per gestire la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo a modo nostro, cioè Dio ci fa le sue promesse, noi all'inizio aderiamo alle sue promesse, ma poi siccome la logica di Dio fa fatica a collimare con quella che è la nostra logica, la logica umana, i nostri criteri, allora cerchiamo di aggiustare noi le cose, cerchiamo di manipolare il disegno di Dio e realizzare le sue promesse a modo nostro, diventiamo in altre parole una serie di trafficoni della fede e per aggiustarla a modo nostro, a nostra misura, secondo i nostri compromessi, dando poi origine non ad un cammino di libertà, ma ad un cammino di schiavitù. Agar diventa l'emblema della legge, ad un cammino di schiavitù che non passa da nessuna parte, che espone continuamente alla morte. Ovviamente l'immagine di Agar viene anche scelta perché nel racconto della Genesi per ben due volte il figlio Ismaele è esposto alla morte perché è rifiutato all'interno della famiglia. Al posto di essere un segno di benedizione diventa un segno di tensione. Questo perché? Perché l'uomo ha voluto forzare la mano di Dio e ha voluto gestire a suo modo quella che era una promessa che Dio aveva consegnato nelle sue mani. Ecco quindi l'immagine che la liturgia oggi ci consegna e che ci aiuta ancora una volta a capire la rivoluzione che Paolo porta nel suo annuncio, nel modo in cui lui annuncia il Vangelo. E teniamo ben presente che per Paolo il Vangelo non è una serie di concetti o una serie di insegnamenti di Gesù. Il Vangelo è il Cristo vivo nel cuore del credente, il Cristo vivo nel cuore del credente, la persona di Cristo che continua a raggiungere tutti gli uomini, a plasmare la mente di chi aderisce a Lui, a indicare la via che conduce al Padre. Ora, in questa scena che noi abbiamo letto, dove Paolo praticamente rischia la morte, viene tenuto in prigione, e a un certo punto viene salvato grazie all'intervento di un suo nipote, cioè del figlio di sua sorella, alcuni hanno intravisto una rilettura per certi aspetti di un altro testo, di un testo che noi troviamo direttamente nel libro della Genesi. E il testo è quello che riguarda la storia del patriarca Giuseppe. Al capitolo 37 del libro della Genesi noi troviamo la scena bellissima in cui Giacobbe manda Giuseppe a cercare i suoi fratelli. Allora, leggiamo un attimo questo testo cercando di vedere quali possono essere le corrispondenze che esistono tra questo testo e l'Apostolo Paolo. Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò ad Otan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: «È arrivato il Signore dei sogni, eccolo, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo, una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse, non togliamogli la vita. Poi disse loro, non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le lunghe maniche che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Ecco, questa scena del libro della Genesi in qualche modo sembra essere ripresa dal narratore degli Atti degli Apostoli. Perché? Perché Paolo è appena arrivato a Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa, emblematica per rappresentare per Paolo la riunificazione con i suoi fratelli. I suoi fratelli rappresentati da un lato dalla Chiesa Madre, che in questo momento di difficoltà è totalmente assente dalla vita di Paolo, cioè non interviene per difenderlo, lo lascia solo. E i suoi fratelli che sono rappresentati dall'intero popolo ebraico, che Paolo ha incontrato non solo nella città santa, ma anche nel Tempio. Ora, nel momento stesso in cui Paolo arriva dai suoi fratelli, cosa succede? I suoi fratelli lo arrestano e vogliono addirittura ucciderlo. Quello che fa Ruben nel libro della Genesi, negli Atti degli Apostoli, nell'episodio di Paolo, lo fa il figlio di sua sorella, cioè lo fa suo nipote, che riesce a liberarlo, cioè a salvargli la vita, ma questo salvargli la vita non sarà una vera salvezza, ma sposterà semplicemente il luogo di detenzione, e non solo lo sposterà, ma lo prolungherà a lungo, proprio per questa minaccia che c'è dietro di lui, proprio come succederà a Giuseppe. Giuseppe, gettato nella cisterna, non riuscirà Ruben a tirarlo fuori e a riportarlo al padre, ma sarà venduto a dei mercanti che lo porteranno altrove, e altrove, da schiavo, in Egitto, farà poi tutto un suo percorso. E in quel percorso lui si rivelerà provvidenziale per tutta la sua famiglia. Ora, anche Paolo, nell'esperienza della prigionia, si rivelerà provvidenziale per tutta la comunità cristiana, per tutta la storia del cristianesimo, per i fratelli che hanno aderito al Vangelo, al punto che nelle lettere della prigionia lui preciserà con toni molto pacati, ma anche molto decisi, che è nella debolezza che si manifesta la forza di Dio. È quando tutto sembra essere tolto all'uomo che l'energia dello Spirito interviene, raggiunge i cuori e li plasma. Quindi, come dire, c'è un dialogo stupendo tra colui che è posto così alla soglia del grande esodo, del grande momento dell'identità del popolo di Israele, il patriarca Giuseppe, e Paolo che è messo alla soglia della nuova identità della comunità cristiana. Quindi c'è proprio, come dire, tutta una serie di corrispondenze che ci fanno capire come dietro le vicende di Paolo c'è un disegno di Dio che scorre, ed è lo stesso disegno che ha accompagnato i grandi della storia. Ora lasciamo un breve spazio musicale in modo da dare a voi la possibilità di rileggere questi versetti, per poi continuare nella narrazione, ascoltare cosa dice il testo e continuare nella nostra riflessione. Quindi abbiamo visto nella nostra lettura come Paolo, dopo l'esperienza della prigionia e la minaccia di morte che lo espone realmente a un pericolo molto grave, riesce ad essere salvato grazie all'intervento del nipote. Cosa succede in seguito? Ascoltiamo il testo dal versetto 22 al versetto 35. Il comandante allora congedò il ragazzo con quest'ordine: non dire a nessuno che mi hai dato queste informazioni. Fece poi chiamare due dei centurioni e disse: preparate 200 soldati per andare a Cesarea, insieme a 70 cavalieri e 200 lancieri, 3 ore dopo il tramonto. Siano pronte anche delle cavalcature e fatevi montare Paolo perché venga condotto sano e salvo dal governatore Felice. Scrisse poi una lettera in questi termini. Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo è stato preso dai giudei e stava per essere ucciso da loro, ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato perché ho saputo che è cittadino romano. Desiderando conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Sono stato però informato di un complotto contro quest'uomo e lo mando subito da te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui. Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il giorno dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne tornarono alla fortezza. I cavalieri, giunti a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Dopo averla letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse e, saputo che era della Cilicia, disse: «Ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori», e diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode. Allora, anche questa seconda parte è particolarmente interessante perché per Paolo inizia un itinerario che lo vedrà prigioniero davvero per un periodo molto prolungato. Sappiamo che ci sono almeno 2 anni a Cesarea e poi ulteriori 2 anni a Roma. E non sappiamo se è quella la prigionia con cui Paolo viene poi al termine messo a morte o se viene poi liberato per essere arrestato durante la persecuzione di Nerone e vivere un'ulteriore esperienza di prigionia. Ecco, da parte mia sono più propenso con questa seconda ipotesi. Sta di fatto che Paolo si manifesta fin da queste righe come un uomo esperto di prigioni ed è lì che lui matura l'aspetto più forte dell'insegnamento che traspare delle sue lettere, che è proprio il processo di cristificazione, di conformazione a Cristo, di essere assimilato alla passione e alla morte di Gesù per sentire il dinamismo della risurrezione in quel Vangelo che lui annuncia. Cioè, più Paolo è messo alla prova ed è chiuso negli spazi della sua prigione, più il suo annuncio diventa universale. E Paolo lo sperimenta da vicino e questo riuscirà proprio a trasmetterlo, a comunicarlo attraverso quelle lettere che insieme ai suoi collaboratori scriverà. Ora, notiamo che coloro che stanno attorno a Paolo tutelano l'Apostolo, cioè l'impero romano che sembra essere il nemico dei giudei, in questo caso tutelano un giudeo che si è presentato come cittadino romano. E c'è una sorta di ironia nel narratore. Il narratore sembra quasi, cioè Luca sembra quasi dirci che i pagani romani sono più uniti tra di loro, sono più solidali tra di loro rispetto agli ebrei, che invece danno prova di volere la morte di un loro correligionare come Paolo. Ed ecco allora questo apparato enorme che tutela l'Apostolo, 200 soldati uniti a 70 cavalieri più 200 lancieri che partono 3 ore dopo il tramonto. E vengono preparate addirittura delle cavalcature per Paolo, non una, più cavalcature. Perché? Siccome hanno paura che Paolo venga fatto fuori nel percorso, probabilmente gli fanno cambiare cavalcatura lungo il percorso, in modo che nessuno sappia veramente chi è quello che viene scortato tra Gerusalemme e Cesarea, con una fermata notturna ad Afek, dove però il gruppo si assottiglia perché oramai Paolo è praticamente fuori di quella che era la zona di pericolo. Quindi, in questo contesto, che sembra essere un contesto decisamente negativo, il bene tutela al massimo grado Paolo. Non succede in nessun altro punto della sua storia, almeno di quella che noi conosciamo dagli atti, dalle lettere, che Paolo abbia una scorta d'onore di questo tipo. Cioè, questo ci fa capire anche l'importanza dell'araldo del Vangelo che viene qui messo in scena dal narratore, da Luca. E questo a me suscitava nella riflessione anche l'eco del Vangelo che ieri ci proponeva la liturgia ambrosiana. La liturgia ambrosiana ieri ci proponeva delle parabole, e tra cui la parabola del buon grano e della zizzania. E la parabola iniziava dicendo che il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò del buon seme nel suo campo. Ora di notte venne poi il nemico e seminò anche la zizzania nel campo. Però quello che è bello in questa parabola è che il regno dei cieli è simile a un uomo che semina del buon seme. Ora, siccome noi sappiamo dall'annuncio dei Vangeli che il regno dei cieli è già presente e si orienta verso un non ancora, allora questo ci dice che dovunque, in ogni situazione, anche la più oscura, c'è sempre il Signore che semina il bene. Addirittura quando i discepoli chiederanno a Gesù di spiegare la parabola della zizzania nel campo, spiegando Gesù dirà il buon seme sono i figli del regno, vale a dire il buon seme siete ciascuno di voi che seguite me. E quindi vedete in questa scena dell'Apostolo Paolo come non solo il bene lo circonda, ma il bene che lui è, cioè che Paolo rappresenta per la sua configurazione a Cristo, viene addirittura tutelato con tutta una serie di apparati. L'essere tutelato non significa però, badiamo bene, liberarlo dalla prigionia o distoglierlo dalla sofferenza, perché proprio la prigionia, proprio la sofferenza rappresenta per Paolo il momento in cui vive la fecondità del Vangelo, il momento in cui quel seme che viene diffuso, caduto in terra, muore, per non rimanere solo, ma per generare un altro frutto. Anche qui, se io scorro le pagine dell'Antico Testamento, mi sembra che ci possa essere una scena che non dico che ha ispirato Luca nel narrare questo passaggio della vita di Paolo, ma che è significativo per comprenderla. Ed è la scena in cui Ezra si prepara per rientrare a Gerusalemme, un altro momento delicato per il popolo di Israele. Il popolo si trova in esilio dopo la grande e dolorosa esperienza della distruzione del Tempio. Molti anni dopo, Ezra si trova a dover invitare Israele, che oramai si è posizionato bene anche in terra d'esilio, a dire: guardate, è il tempo di tornare, di ricostruire il Tempio. Torniamo nella nostra terra, torniamo dai nostri fratelli e ricostruiamo il Tempio. Però un conto era invitarli a partire, un conto è realizzare il ritorno. Il ritorno si doveva misurare con tante difficoltà e anche con chi non accettava che questi ritornavano. Quindi vedete che la situazione di Paolo in qualche modo si ripropone. E Ezra è nel dubbio se chiedere o meno dei rinforzi per il ritorno, per proteggere il loro ritorno, al governatore che gli ha dato il permesso di tornare a Gerusalemme. E allora il testo, nel libro di Ezra, al capitolo 8, dal versetto 21 in poi, racconta così: indissi un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio e implorare da Lui un felice viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutti i nostri averi. Avevo infatti vergogna di domandare al re soldati e cavalieri per difenderci lungo il cammino di un eventuale nemico. Perché avevamo detto al re: la mano del nostro Dio è su quanti lo cercano per il loro bene, e la sua potenza e la sua ira è su quanti lo abbandonano. Così abbiamo digiunato e implorato Dio per questo, ed egli ci ha esaudito. Cioè, cosa ci dice questo testo? Esdra aveva paura a tornare senza una scorta, perché sapeva le minacce che c'erano lungo il cammino. Però, siccome aveva detto al re e al governatore che Dio comunque custodisce coloro che lo cercano e punisce coloro che invece vogliono umiliare in modo ingiusto coloro che lo cercano, allora non se l'è sentita di chiedere dei rinforzi, ma si è affidato alla preghiera e al digiuno. E grazie alla preghiera e al digiuno arriva sano e salvo a Gerusalemme. Ora, anche nella scena di Paolo, noi vediamo Paolo non chiede nessuna scorta, non chiede nessun aiuto. Sono i romani che in una situazione del genere, dopo essere stati avvertiti dal nipote di Paolo, decidono di tutelare l'araldo del Vangelo. Quindi, in qualche modo, viene precisato che in una situazione delicata Dio interviene comunque per dare forza ai suoi. E ciò che è un annuncio all'esterno è chiaramente anche un motivo di sicurezza e di forza per Paolo. In questa situazione cosa succede? Che con una lettera Claudio Lisia manda Paolo dal governatore Felice. Ora, noi abbiamo dei documenti concreti, storici, archeologici, che ci confermano che Felice fu procuratore della Palestina più o meno dal 52-53 d.C. al 59-60, quindi è databile con un certo margine di sicurezza il periodo in cui tutto questo avviene. Ora, Felice non è che brilli nella storia per una gestione delle situazioni, soprattutto della situazione in Siria-Palestina, legate a una qualità tattica o di mediazione. Felice era una persona molto violenta, tanto che con lui le tensioni con il popolo di Israele, con i giudei, cominciarono ad aumentare, al punto tale che oramai all'interno del popolo si comincerà a preparare la guerra giudaica, che poi scoppierà tra gli anni 66 e gli anni 70, la prima guerra giudaica. Quindi Felice è colui che comincia un pochino a esasperare gli animi. Verrebbe da dire: Paolo cade dalla padella alla brace, perché è vero che a Gerusalemme c'è qualcuno che vuole la sua morte, però è anche vero che le persone a cui viene affidato non vogliono sicuramente la sua vita, sono delle persone a cui insomma, non interessa tanto l'annuncio che Paolo porta, ma il timore che Paolo possa essere un pericolo non solo per l'ambiente ebraico, ma anche per l'ambiente romano. Come mai allora viene tutelato e trattato con tutti i guanti? Proprio perché Paolo è cittadino romano. Aveva dichiarato che da cittadino romano, era cittadino romano, e da cittadino romano voleva essere trattato, e il governatore, proprio in base alla legge del tempo, fece in modo che Paolo fosse trattato con tutte le tutele. All'interno di questo, però, quello che per noi è importante sottolineare è che Paolo sperimenta nella prigione la provvidenza di Dio. Dio non abbandona i suoi che sono nella prova, e non solo sperimenta la provvidenza di Dio, ma sperimenta anche la fecondità che la prova dà al suo ministero. Ecco, quindi lasciamo un altro breve stacco musicale prima di leggere poi la terza parte del racconto, cioè l'arrivo di Paolo presso il governatore Felice. Entriamo nella terza parte di questo racconto, quindi Paolo minacciato a morte, la prima parte dove viene salvato dal nipote, seconda parte il trasporto sotto scorta di Paolo da Gerusalemme a Afec prima e da Afec a Cesarea, terza parte Paolo che arriva dal governatore Felice, che, come dicevamo prima, non era proprio un modello di mediazione, ma era una persona alquanto violenta. cosa succede mentre Paolo si trova a Cesarea, dove, come abbiamo letto prima, Paolo viene ospitato niente meno che nel pretorio di Erode, quindi certamente nel pretorio c'erano anche delle prigioni poco accoglienti, però erano sicuramente prigioni meglio sistemate rispetto a prigioni che potevano essere in altre parti. Ascoltiamo il testo. 5 giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania, insieme ad alcuni anziani e a un avvocato, un certo Tertullo, e si presentarono al governatore Felice per accusare Paolo. Quando questi fu fatto venire, Tertullo cominciò l'accusa dicendo: «La lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che sono state fatte in favore di questa nazione grazie alla tua provvidenza, le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine. Ma per non trattenerti più a lungo, ti prego nella tua benevolenza di ascoltarci brevemente. Abbiamo scoperto infatti che quest'uomo è una peste, fomenta disordini fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è un capo della setta dei Nazorei. Ha perfino tentato di profanare il Tempio e noi l'abbiamo arrestato. Interrogandolo potrai sapere di persona da lui tutte queste cose delle quali noi lo accusiamo». Si associarono all'accusa anche i giudei affermando che i fatti stavano così. Allora, notiamo da questa narrazione come la narrazione continua complicando la situazione a Paolo, perché se prima rischiava la morte, adesso continua a rischiarla. E gli anziani, il sommo sacerdote Anania, è arrivato ben attrezzato, perché si è portato con sé un avvocato che manifesta una grande abilità oratoria. Dietro le righe però c'è l'ironia del narratore, perché questo avvocato che fa il portavoce niente meno che del sommo sacerdote degli anziani, quindi dei rappresentanti della religiosità di Israele, usa nei confronti del governatore, noto per la sua violenza, delle parole che dovrebbero essere attribuite alla misericordia divina. Quindi c'è una sorta di bestemmia tra le righe, di cui questi anziani e questo sommo sacerdote non si rendono conto. Ad esempio, quando attribuisce al governatore la lunga pace di cui godiamo, o attribuisce al governatore la provvidenza di cui godiamo, e manifesta nei confronti del governatore una profonda gratitudine che sappiamo, certo, faceva parte dei discorsi di rito, però in questo caso, ecco, la profonda gratitudine poteva avere magari qualche altro aggettivo un pochino più leggero. Paolo sperimenta tutte queste cose nei confronti di Dio, e invece loro attribuiscono queste cose niente meno che al governatore che trascinerà il popolo poi verso quella che sarà la guerra giudaica. Quindi abbiamo come dire, dei modi di comportamento totalmente opposti, totalmente falsi in un certo senso. E Paolo emerge come il profeta, un profeta, come tutti i profeti dell'Antico Testamento. Paolo è esposto al ludibrio, è esposto ad accuse false ed è davvero, sotto tutti i punti di vista, un profeta scomodo. Per lui si realizza quanto stamane ci diceva il Vangelo nella liturgia: chi avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, figli, campi, riceverà 100 volte tanto insieme a persecuzioni. Insieme a persecuzioni. Paolo sta vivendo questa dimensione insieme a persecuzioni, Vangelo di ieri, della domenica. E anche in questo caso noi possiamo individuare una figura tipologica dell'Antico Testamento che sembra rivivere nell'esperienza di Paolo. Chi è? È l'esperienza di Geremia. Se noi andiamo a leggere il capitolo 38, Geremia vive un'esperienza molto simile. Leggo il testo. I capi dissero al re: si metta a morte quest'uomo, Geremia, perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest'uomo non cerca il benessere del popolo ma il male. Il re Sedecia rispose, egli è nelle vostre mani, il re non ha poteri contro di voi. Essi allora presero Geremia, lo gettarono nella cisterna di Malchia, un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con le corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech, l'etiope, un eunuco che era nella reggia, sentì che Geremia era stato gettato nella cisterna. Ora, mentre il re stava alla porta di Beniamino, Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re, «Ora è mio signore, quegli uomini hanno agito male, facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia e gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città». Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope, «Prendi con te 3 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia». Ebed-Melech prese con sé gli uomini, andò nella reggia, nel guardaroba del magazzino, e presi di là pezzi di vestiti logori li gettò a Geremia nella cisterna, con delle corde. Ebed-Melech, l'etiope, disse a Geremia, «Su, mettiti questi pezzi di vestiti logori sotto le ascelle, e poi sotto metti le corde». Geremia fece così. Allora lo tirarono su con le corde, facendolo uscire dalla cisterna, e Geremia rimase nell'atrio della prigione. Notate, anche qua, false accuse nei confronti di Geremia. Geremia viene gettato nella cisterna di fango, però poi cosa succede? Succede che questa persona secondaria all'interno del regno fa capire al re che le accuse mosse sono false, tirano fuori Geremia e Geremia sarà prezioso per quel re perché gli dirà come si deve comportare. Poi il re non lo ascolterà, pazienza, però Geremia indica al re la strada che questi deve percorrere, ma siccome poi la strada da percorrere al re sembra impossibile o comunque troppo impegnativa, non la seguirà e finirà male. Ora la stessa cosa succede a Paolo. Paolo è costretto, stretto da tutti coloro che lo accusano da ogni parte, ma anche in questa situazione riuscirà a cavarsela. E non solo, diventerà una figura preziosa per quel governatore Felice che lo ha accolto e per colui che dopo Felice verrà, il governatore successivo si chiamerà Festo e Paolo dialogherà anche con Festo facendogli capire alcuni elementi importanti che caratterizzano la vita, il comportamento ecco, che ognuno deve tenere. Quindi davvero in Paolo rivive l'esperienza dei profeti di Israele, che sono tutte figure scomode, ma che lasciano però una scia luminosa all'interno della storia di Israele. E questo diventa per noi prezioso anche per richiamare il significato della figura profetica. Chi è il profeta in Israele? Il profeta in Israele non è colui che indica il futuro, assolutamente no. Se noi abbiamo questa visione del profeta come colui che indica il futuro, non ne cogliamo la portata e sfuochiamo anche questa preziosa vocazione all'interno del popolo di Dio. Il profeta non è colui che indica il futuro, ma colui che offre un orizzonte al presente, caricandolo di significato. E questo trasforma tutto, cioè il profeta è colui che offre un orizzonte, offre uno spazio, offre visione al presente che noi ci troviamo a vivere, caricandolo di quel già della salvezza che lo abita. E grazie a quel già spinge verso il non ancora, però apre il presente. È tipico della religione spostare tutta l'attenzione verso la vita eterna, verso il domani, verso il dopo. Qui viviamo male, ma domani saremo ricompensati per quello che facciamo. Oggi viviamo in un certo modo, però domani ci sarà il giudizio. Oggi soffriamo, ma domani staremo bene. Ecco, questa visione non è totalmente una visione di fede, perché non è legata ad una visione, cioè posticipa tutto al domani, ma non apre l'orizzonte del presente. Il profeta invece è colui che apre l'orizzonte del presente orientando verso un compimento, però aiuta a vivere la vita adesso, qui ed ora con la V maiuscola, per prepararsi ad accogliere il compimento di questa vita che in Cristo però ci è già donata. Ecco, Paolo è colui che aiuta la comunità cristiana a vivere il già e il non ancora proprio sperimentando l'esperienza della prigionia e della sofferenza. Se noi ci pensiamo bene, nel suo ministero, nella lettera ai Colossesi, Paolo dirà che nell'esperienza della sofferenza lui vive la configurazione a Cristo fino a completare nella sua carne ciò che manca alle sofferenze di Cristo. Cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che Cristo non ha sofferto a sufficienza? Assolutamente no. Vuol dire che Paolo, soffrendo, sente di continuare, di portare avanti quell'abbraccio universale della misericordia di Dio verso gli uomini, cioè l'amore di Cristo ha bisogno ancora di manifestarsi a molti per Paolo. E lui dice: io vivo le mie sofferenze perché so che in queste permettono all'amore di Cristo di manifestarsi a molte persone, facendogli sperimentare l'incontro gratuito con l'amore di Dio. Ecco, lasciamoci così, quindi illuminare da queste ulteriori pagine che anche questa sera abbiamo condiviso, ripercorrendo questa scena degli Atti degli Apostoli, pagine che ci hanno permesso anche di vedere come l'Antico Testamento illumina l'esperienza di Paolo. L'abbiamo visto soprattutto con tre personaggi: Giuseppe il patriarca, nel momento in cui viene gettato nella cisterna e venduto dai fratelli; abbiamo visto l'esperienza di Esdra, quindi questo grande accompagnatore della ricostruzione di Gerusalemme dopo il lungo periodo dell'esilio, e poi l'abbiamo visto anche con Geremia, questo profeta scomodo che anticipa in qualche modo la scomodità che Paolo costituisce per i suoi stessi correligionari e, tra le righe, potremmo dire per la stessa Chiesa Madre di Gerusalemme, che in questo momento non se la sente ancora di esporsi per diverse ragioni. Quindi vedete come Paolo continua a provocare la nostra fede e anche il nostro discepolato. Ora, cari ascoltatori, inizia la parte del dialogo tra di noi. È importante all'interno della nostra lettura degli Atti degli Apostoli che ci sia anche un momento dove voi stessi potete intervenire, fare delle domande o delle brevi considerazioni, in modo da arricchire il nostro dialogo e anche magari stimolare ad approfondire alcuni aspetti che così nella spiegazione, nella conversazione magari posso avere trascurato. Quindi lascio la parola alla regia che vi darà alcune indicazioni su come contattarmi e resto in attesa delle vostre domande. Pronto, buonasera, con chi buonasera. Parlo? Mi chiamo Franco e parlo dalla provincia di Lecce. Bene, mi dica Franco. Ecco, lei all'inizio ha chiesto per ben due volte perché tanto odio verso Paolo. Beh, non mi sembra che sia tanto difficile rispondere, nel senso che Paolo era un cittadino romano e un ufficiale romano e in più un massacratore di giudei, quindi non poteva essere amato. E sappiamo benissimo che cosa significa perseguitare in quei periodi. Altra osservazione è perché la scorta così massiccia nei confronti di Paolo per difenderlo, dagli attacchi dei giudei o dei sacerdoti? E perché, ha detto lei stesso, era un cittadino romano e godeva della tutela delle leggi romane. Solo che noi poi scopriamo che, per ironia della sorte, Paolo diventa nemico per ambe due le parti, le ambe due fazioni, sia per i giudei che per i romani. Per i giudei, per quello che abbiamo detto prima, per i romani è perché, diciamo, fra virgolette, si converte, crea una nuova, fra virgolette, religione. Ma onestamente, dal punto di vista storico, la sua predicazione chi ha favorito? Favorisce i romani, perché quando dice che tutti i popoli sono uguali, non ci sono le differenze, automaticamente annulla la divisione degli ebrei e dei giudei di popolo di Dio. Quindi Paolo non fa altro che crearsi continuamente dei nemici e lavorare a livello, come dire, ideologico a favore dei romani, che però molti non capiscono. Ecco, secondo me queste sono delle osservazioni sulle quali si dovrebbe, e io medito da tanto tempo su questo, e la ringrazio e mi piacerebbe una sua risposta. Grazie. Carissimo Franco, grazie per il tuo intervento e anche per le provocazioni, no, che hai lanciato. Ecco, mi sembra di intravedere dietro il tuo intervento alcuni testi che soprattutto in alcuni ambienti presentano Paolo in un certo modo. Allora, mi permetto così di correggere alcune tue espressioni, no? Anche se nell'insieme ci sono anche cose buone nell'intervento che tu hai fatto, no? Prima di tutto, Paolo ufficiale romano. Paolo non è un ufficiale romano, Paolo è un ebreo nato da ebrei, circonciso l'ottavo giorno, fariseo in quanto alla legge, come lui stesso spiega in diversi passaggi delle sue lettere. Quindi Paolo non è un ufficiale romano, anche se all'interno della sua vicenda, probabilmente legata ad alcune vicende del padre o comunque dei suoi avi, ha acquisito la cittadinanza romana, il che gli permette, gli dà alcuni privilegi, ma questo non significa che è un ufficiale romano. Lui è un ebreo, ha studiato a Gerusalemme, tra l'altro quest'oggi abbiamo visto altri membri della sua famiglia si trovavano a Gerusalemme, probabilmente per gli stessi motivi, per rinforzare quella che era l'identità ebraica. La seconda osservazione: Paolo non è un massacratore di giudei, assolutamente no, Paolo inizialmente si muove con un certo zelo, una certa passione, una certa violenza nei confronti di chi esce dai confini del giudaismo, e lui vede nei cristiani una setta giudaica che sta inquinando la religiosità ebraica, e quindi quando lui si muove verso Damasco lo fa con lo zelo per portare questi eretici a Gerusalemme e farli giudicare, e lo fa con una certa violenza, ma non per massacrare i giudei, ma per tutelare l'identità del popolo ebraico. San Paolo nemico dei giudei o dei romani? Assolutamente no, San Paolo non è nemico di nessuno, lui stesso dirà nella lettera ai Romani che prova un dolore infinito nei confronti di coloro che credono come lui e hanno come lui il dono della circoncisione, della legge, e prova un desiderio enorme, e non avrà pace finché anch'essi non scopriranno Cristo. Pensiamo ai capitoli 9 e 11 della lettera ai Romani, quindi anche se alcune volte a motivo degli ostacoli che trova nel cammino magari utilizza alcune espressioni un pochino forti, questo non significa che Paolo è nemico dei romani e dei giudei, non è nemico né degli uni né degli altri, ma desidera che l'amore di Cristo raggiunga sia gli uni che gli altri, e non direi nemmeno che favorisce i romani, da ufficiale romano che favorisce i romani, assolutamente no, cioè il suo insegnamento, il suo annuncio del Vangelo è un annuncio provocatorio e rivoluzionario, sia nei confronti dei giudei, perché li riporta alle radici della loro fede, non stravolge la fede ebraica, la riporta alle sue radici più limpide, ma è anche molto provocatorio nei confronti dell'impero romano e delle sue strutture, perché non accetta il potere, cioè l'annuncio del Vangelo smonta le strutture di potere dell'impero romano, smonta le strutture sociali dell'impero romano, cioè è rivoluzionario per gli uni e per gli altri. Ora, dietro la sua lettura però io intravedo dei testi ben precisi, quindi la inviterei magari a allargare, estendere come dire, il suo approfondimento, magari attingendo anche a qualche altro testo. Ci sono testi di grande valore, ad esempio di James Dunn, di Murphy O'Connor, che possono aiutare ad avere magari una visione un pochino più, come dire, studi che magari hanno affrontato anche altri aspetti della vita di Paolo. Grazie Franco per il tuo intervento. Pronto? Pronto, mi sente? Ah, mi sente. Allora, io sono Agnello della provincia di Salerno. Sono rimasto colpito dalla sua dissertazione, molto precisa. Quello che volevo da lei essere spiegato, sembra strano, sia Paolo, sia Geremia, sia Esdra, sia tutti, anche nel percorso dell'umiltà, del cammino cristiano, vengono a cozzare con l'autorità, ma nello stesso tempo sembra che quasi Dio usi l'autorità, perché poi Paolo in questo cammino arriva a Roma, e Roma è il punto di diffusione generale di tutto l'impero. Così tutte le figure che lei ha nominato, sia Esdra, sia Geremia, vanno a toccare l'autorità. Allora io notavo questa realtà, come anche nello stesso momento attuale, con i papa precedenti e così via, hanno usato un cammino, Gesù Cristo usa un cammino leggero, cioè dell'umiltà, ma nello stesso tempo li mette a confronto dell'autorità, e l'autorità diventa un volano motore per lo stesso annuncio. Mi sbaglio? No, ha ragione. Forse dietro quello, no, che lei dice, c'è proprio un percorso, no, voluto, nel senso che perché il Vangelo raggiunga il più possibile le periferie, i luoghi di periferia, è importante per l'Apostolo riuscire ad abitare i crocevia, tenendo presente però una cosa, che la fecondità dell'annuncio di Paolo, almeno da quanto emerge non solo dalla narrazione di Luca, che se vogliamo è una narrazione che viene estesa almeno 20 anni dopo la morte di Paolo, quindi c'è una riflessione in mezzo, ma nelle lettere autentiche di Paolo quello che emerge è che è proprio quando Paolo è nei bassi fondi della prigione, quindi all'opposto dei luoghi di potere, che sente il suo ministero particolarmente fecondo, anche se nel desiderio Paolo vuole raggiungere anche i luoghi di potere, cioè nessuno viene escluso dal desiderio di un Vangelo che possa raggiungerlo. Addirittura a volte Paolo utilizza degli stratagemmi, pensiamo ad esempio alla lettera ai Romani. La lettera ai Romani a chi Paolo la vuole indirizzare? Non la vuole indirizzare a Roma, ma la vuole indirizzare a Gerusalemme, però sa che se scrivesse quella lettera alla Chiesa Madre di Gerusalemme, sappiamo, la lettera ai Romani è il grande testamento teologico di Paolo, cioè il suo pensiero in toto è racchiuso in questa lettera. Se noi vogliamo capire Paolo, per quanto questa lettera possa oggi suonare un pochino complessa, però dobbiamo avere questa lettera, dobbiamo confrontarci con questo scritto, perché lì c'è tutto il pensiero di Paolo, tutto. Ora Paolo vorrebbe mandare questa lettera alla Chiesa Madre di Gerusalemme, che gli sembra che tante cose non abbia ancora capito, no? Però se la manda a Gerusalemme, lui sa che la lettera verrebbe cestinata. Allora cosa fa? La scrive a Roma, perché poi i fratelli di Roma, che non butteranno via questa lettera perché la capiscono molto bene, la portino poi a Gerusalemme, ma almeno la lettera viene salvata. Quindi, questo per dire che cosa? Paolo ha in mente certo i luoghi di potere, i luoghi che influiscono sulla vita della Chiesa, però sa che le vie di Dio a volte sono proprio diverse da quella che è la logica umana, e quindi sente non solo la fecondità passare da ciò che è di più basso, più umile, più nascosto, più sofferto, ma utilizza lui stesso altre vie pur di raggiungere questi luoghi di potere. Grazie di cuore al nostro amico di Salerno per la sua considerazione, la sua domanda. Sì, pronto, con chi parlo? Buonasera padre, sono Teresa al telefono da Roma. Tanti auguri Teresa, oggi è il suo onomastico. Ah, grazie, grazie mille, ne ho proprio bisogno, la ringrazio tanto. Purtroppo non ho sentito tutta la catechesi, solo gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, ma ho sentito sulle sofferenze, perché sento molte persone che parlano di offrire le sofferenze. Io ho questo dolore, non mi curo, offro le mie sofferenze, cioè il significato, lei l'ha detto di Paolo, cosa significava per lui offrire sofferenze, cioè io al Signore vorrei offrire solo le mie arti d'amore, la mia bontà, tutto il bene, ma riguardo alle sofferenze fisiche e spirituali, cioè mi spieghi bene lei il significato, la ringrazio e l'ascolto per radio. Allora, carissima Teresa, è una domanda enorme quella che lei mi fa, però ecco, cerco di rispondere con una piccola immagine, no? L'immagine è quella del timone di una barca. Allora, quello che conta nella nostra esistenza, nel nostro quotidiano, è permettere che questo timone sia preso dalle mani di Dio, cioè sia Dio a guidare le nostre giornate, sia Lui a guidare la nostra esistenza, sia Lui a guidare il nostro oggi. Se è Lui che guida il nostro oggi, allora riusciamo a cogliere in ciò che noi viviamo, di luminoso o magari di oscuro, di faticoso, la traccia della sua via. Ovviamente questo non significa che noi, se stiamo soffrendo, non dobbiamo curarci, o se stiamo vivendo dei momenti di buio, pensare subito che siamo come Santa Teresa che vive la notte oscura, o San Giovanni della Croce che vive la notte oscura. No, questi momenti sono dei momenti che ci devono portare a interpellarci, a chiederci come mai sto vivendo questo, cosa c'è dietro questo momento di dolore, questa sofferenza, queste tensioni, dove il Signore mi vuole condurre. Cioè, quello che è importante è dare uno sguardo, una lettura al nostro presente che non si basi sul nostro io, ma sul rapporto che il Signore tesse insieme a noi. E il Signore, sia pur certo, cara Teresa, che non vuole le nostre sofferenze, non vuole il nostro dolore, però a volte ci fa passare dalla valle oscura, come dice il Salmo 23, perché è un punto di passaggio obbligato, la porta stretta, bene o male, tutti, arriva il momento in cui tutti la dobbiamo attraversare, in un modo o nell'altro, e bisogna solo pregare che in quel momento davvero il timone ce l'abbia in mano il Signore, perché così siamo sicuri che non siamo da soli sulla barca, perché se vogliamo attraversarlo da soli sarà un grave danno. Quindi in questo senso l'offerta, noi alla fine, signora Teresa, non offriamo niente, sa? L'unica cosa che riusciamo a fare è quella di consegnarci nelle mani del Signore, ed è Lui che ci unisce alla sua offerta, è Lui che rende fecondo quello che noi possiamo mettergli nelle mani. Quello che noi possiamo fare è consegnarci a Lui, senza però mai smettere di cercare il bene, il meglio, il buono. E ciò che è buono, a Lui gradito, è perfetto, dice Paolo scrivendo ai credenti del suo tempo. Quindi penso che sia in questa direzione che dobbiamo cogliere la domanda, o un cenno di risposta alla domanda che lei ha fatto. La ringrazio Teresa e le auguro davvero tanto bene e tanta salute. Pronto? Sì? Pronto, sì. Buonasera, con chi parlo? Parla con Angela di Bolzano. Senta, sì, mi dica. La mia preoccupazione sempre, specialmente nei giorni di Pasqua, è la faccenda degli ebrei. Mi faccio sempre la domanda, ci può essere una relazione, un incontro, qualcosa tra cattolici e ebrei? Non c'è solo visite di cortesia. Ecco, perché non si riesce ad avere un rapporto, oppure per come mai gli ebrei non riescono a ragionare? È diverso in certi punti, specialmente in ultimo, la Bibbia, che parla appunto che loro non possono riconoscere Gesù come il Messia. Ecco, questo per me è un problema, questo lo sarà anche per Gesù e gli apostoli in cielo. Grazie signora Angela per la sua domanda. Allora rispondo dicendo che la prima parte della risposta, poi faccio la seconda. La prima parte della risposta è che, ma guardi, io penso che noi viviamo continuamente da parte nostra la dimensione dell'incontro ogni volta che apriamo la scrittura. Non so se ha seguito la trasmissione di questa sera, no? Ma quando io leggo Paolo e intravedo dietro la vita di Paolo, così come ce la narra Luca, no? Le grandi figure dell'Antico Testamento, pensiamo a Geremia, pensiamo a Esdra, abbiamo visto anche Giuseppe il Patriarca, ma come faccio a non essere in sintonia con i fratelli ebrei? Non posso, anzi, ci sono alcune letture di queste storie dell'Antico Testamento, di queste pagine anticotestamentarie, che sono stupende, feconde, lette nella loro prospettiva. In questo periodo sto tenendo un corso alla facoltà teologica, allo studio teologico, sui grandi temi della scrittura, no? Ed è bello vedere come questi grandi temi sono proprio, ricevono delle luci enormi dalla lettura e dall'interpretazione della tradizione ebraica. E quindi non posso non sentirmi in sintonia, non sentirmi aperto verso i fratelli ebrei. Poi è chiaro, c'è il mistero, come mai loro non riconoscono il Cristo? Ma non lo so, forse noi stessi non siamo ancora sufficientemente luminosi, no? Quando Gesù spiega la parabola, no, del buon seme e della zizzania, a un certo punto dice ai suoi discepoli che voi poi splenderete come astri nel mondo, cioè il seme buono sono i figli del regno, che nel regno del Padre splenderanno come astri nel mondo. Ecco, forse il Vangelo non ci ha ancora toccati fino al punto da farci splendere come astri nel mondo. Ecco, l'importante è che il nostro cuore però si tenga aperto, si lascia ogni giorno un pochino illuminare, e quando noi abbiamo la vita dentro, la vita, come dire, si trasmette, e la vita prima o poi diventa contagiosa. E lasciamo poi che il resto lo faccia il Signore, perché cioè, è Lui il primo a volere raccogliere tutti nell'unico gregge, nell'unico ovile, sotto la sua guida. Quindi grazie di cuore Angela per questa tua domanda e per questa trepidazione di una chiesa composta da vari volti, come era all'inizio del cristianesimo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, senti, con chi parlo? Orietta. Mi dica, Orietta. Dunque, avevo in qualche predica sentito che questi profeti, innanzitutto inchiniamoci perché sono loro che hanno aperto la strada, no? Aperti la strada buona sulla via della verità, spesso intanto hanno avuto una vita drama, una vita difficile, e molti sono morti trucidati, come è successo a nostro Signore Gesù Cristo, che è certo il più grande dei profeti. Ma questi profeti spesso non avevano nessuna voglia di parlare, e per parlare erano proprio pungolati da questa sofferenza nel vedere tante cose sbagliate di quel tempo, no? Ecco, questo le volevo chiedere e dire se questo è vero. C'è proprio in loro questo pungolo, questo dolore che allora proprio parlano, anche se spesso non sono mai stati ascoltati nel loro tempo. Grazie e buonasera. Grazie di cuore Orietta, effettivamente la tua domanda ha azzeccato un punto chiave, no? La parola non è l'unica via di annuncio dei profeti, anzi in alcuni casi è addirittura secondaria. C'è tutto un linguaggio che passa attraverso ad esempio la gestualità, pensiamo a tutti i gesti che Isaia prima, Geremia dopo, Ezechiele ancora, sono chiamati a vivere e a manifestare al popolo. Ezechiele ad esempio è un sacerdote che vive tutto il suo ministero in esilio, dove non c'è tempio, non ci sono sacrifici, non c'è niente, quindi con la sua vita è chiamato a testimoniare un altro volto di Dio. Geremia vive tutta una serie di gestualità simboliche attraverso le quali cerca di far capire al popolo il dramma che vive. Isaia passa un periodo prolungato a camminare nudo in mezzo al suo popolo senza nulla dire. Capiamo bene che dietro questa gestualità, dietro alcune scelte, pensiamo a Osea, un altro profeta che è invitato a sposare addirittura una prostituta per far capire al popolo come si è allontanato dall'alleanza. Cioè è chiaro che non c'è un linguaggio fatto solo di parole, ma un linguaggio che passa attraverso gesti forti che provocano e attraverso una vita donata al 100%, per la quale davvero ci vuole proprio lo spirito di Dio. Ezechiele viene invitato ad esempio a divorare il rotolo, la parola la deve divorare, deve diventare sua carne, altrimenti è impossibile esercitare il ministero profetico. E proprio in questi giorni riflettevo anche sugli inizi della creazione. Noi pensiamo che all'inizio della creazione c'è la parola, ma all'inizio della creazione non c'è la parola. All'inizio della creazione il testo dice in principio Dio creò il cielo e la terra. All'inizio della creazione c'è un Dio che plasma, c'è un Dio che ci viene incontro con la gestualità e poi arriva la parola. Noi viviamo in un mondo occidentale dove la parola è al primo posto, ma la parola non è al primo posto. Al primo posto c'è la vita, c'è la gestualità, c'è questo coinvolgimento che fa di questi profeti delle persone totalmente donate, fino a diventare, pensiamo ad Elia, persone di fuoco, dove la forza di Dio che li abita li trasfigura anche all'esterno. Quindi grazie davvero Orietta, perché hai toccato un aspetto che anche per l'Apostolo Paolo è un elemento centrale. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra conversazione, quindi desidero ringraziare quanti di voi sono intervenuti con le loro domande, quindi Franco da Lecce, il nostro amico da Salerno, Teresa da Roma, Angela da Bolzano e Orietta. Ecco, vedete come anche i vostri interventi sono proprio preziosi per continuare ad approfondire questa grande figura dell'Apostolo Paolo. Mi permetto anche di ringraziare Marco che sta alla regia e che ha condotto in modo davvero professionale questa nostra ora e mezza insieme, rendendo possibile il dialogo tra di noi. Lasciamoci davvero, come dire, provocare, illuminare dalla figura di questo grande apostolo, questo apostolo Paolo, no? Che con il suo percorso di vita rappresenta un pochino tutti i momenti che nel nostro cammino di fede noi possiamo vivere. Paolo li ha vissuti tutti, proprio come il suo maestro, come il Signore che lui annunciava. E chiediamo, come lui, di far sì che il Vangelo non sia solo una parola che leggiamo o annunciamo, ma sia l'incontro vivo con la presenza viva di Cristo dentro di noi. A tutti voi un caro saluto e che la benedizione del Signore e l'intercessione di Maria vi accompagni sempre. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.